La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 17 ottobre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Troviamo veramente aberrante quel che è successo qualche giorno fa in Parlamento quando non è passata la legge sull'omofobia e quindi noi abbiamo voluto dedicare una trasmissione proprio a questo dal punto di vista però scientifico come nostro solito e in questa puntata parleremo delle possibili origini genetiche dell'omosessualità e ne parleremo col professor Andrea Camperi Ociani del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova. Buongiorno professor Camperi Ociani. Buongiorno. Professor Ciani, come al solito abbiamo 100 parole iniziali per cominciare la trasmissione e quindi nelle 100 parole io vorrei sapere da lei se mi può dire se esiste un'origine genetica dell'omosessualità. L'omosessualità ha una origine molto variabile. Ci sono omosessuali che hanno una componente genetica e omosessuali che non l'hanno. Senz'altro c'è una componente genetica che può influenzare l'orientamento sessuale delle persone e questa è quella che noi studiamo. Professore, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio cominceremo ad analizzare alcuni lavori usciti sulla letteratura scientifica proprio su questo argomento. We won't get older now. We'll just be younger in our dreams. Your future's like everything you know. It keeps flowing. Choke on your dust, for you're the light and the last. You painted my blank canvas. Colors like when you write home. The blues of the skies with the green of the grass. All the feelings packed into one. E bentornati in studio cari radioascoltatori, a questo punto cominciamo la trasmissione che come già detto è incentrata sulla possibile origine genetica della omosessualità e stiamo parlando col professor Andrea Camperi Ociani del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova. Professor Ciani, lei è diventato famoso per un lavoro uscito sul sito della Royal Society proprio nel 2004. In questo lavoro voi vi chiedevate come mai se il carattere dell'omosessualità è un carattere perdente dal punto di vista evoluzionistico, questo carattere invece è rimasto e si è perpetrato nel corso dei secoli. Io mi occupavo di strategie riproduttive nell'uomo e come le strategie riproduttive consentono agli individui di trasmettere le proprie caratteristiche vantaggiose anche nella nostra specie. quando mi sono imbattuto in una caratteristica che da un punto di vista darwiniano dell'evoluzione non sembra vantaggiosa, nel senso il vantaggio noi evoluzionisti lo misuriamo come la capacità di lasciare più figli rispetto agli altri. Per noi vantaggio è soltanto un termine, quello che si intende come fitness, numero di figli che si riproducono che vengono lasciati. Ora, è chiaro che con questa definizione, che non ha niente di morale e niente di moralistico, l'omosessualità non è vantaggiosa, perché è un comportamento che generalmente, se condotto in maniera esclusiva, non lascia figli. Sembra un cosiddetto paradosso darwiniano questo. Infatti è un paradosso darwiniano, diventa un paradosso darwiniano soltanto nel momento in cui si comincia a capire che l'omosessualità non è, tra virgolette, un vizietto o un'abitudine scelta dagli individui o un'influenza esclusiva dell'ambiente, perché sennò a questo punto uno può anche non porsi la domanda di qual è il vantaggio che lascia. Ma se ci sono dei geni che scopriamo influenzare l'orientamento sessuale, e in questo caso alcuni alleli, quindi alcune varianti che influenzano l'orientamento omosessuale, la domanda dell'evoluzionista è: perché ci sono? Cioè, in parole povere, se un carattere si è tramandato nel corso del tempo, un vantaggio evoluzionistico lo deve avere. Infatti sappiamo che negli studi sui gemelli, negli studi sui fratelli, se uno è gay è molto probabile che anche l'altro lo sia. Non è certo, non è assoluto, ma è molto probabile. E questa è un'indicazione che c'è un fattore genetico. Ma allora, se c'è un fattore genetico, come fa a diffondersi nella popolazione, visto che non favorisce la riproduzione? E quindi ci siamo posti questa domanda, questo dilemma, e l'abbiamo risolto in maniera molto curiosa. Cioè? Abbiamo scoperto, questo grazie anche agli aiuti dopo tutta una serie di studi che avevamo fatto, in lavorando insieme a mia figlia, che era una ragazzina, e io mi esercitavo raccontandogli il problema scientifico e i dati che raccoglievo, e lei ingenuamente mi faceva delle domande, dava delle soluzioni, mi aiutava a pensare, quando improvvisamente gli è venuta a lei un insight, mi ha detto: ma papà, hai provato a verificare se gli individui che sono omosessuali non hanno per caso, visto che vengono da famiglie numerose, questa è una cosa che avevamo scoperto, che gli omosessuali vengono generalmente da famiglie numerose, generalmente hanno più fratelli maschi, quindi non è possibile che le mamme di questi omosessuali facciano più figli delle altre? Al che sono tornato nel laboratorio, ho analizzato tutti i dati, avevo 6.000 soggetti di 100 famiglie di omosessuali e 100 famiglie di eterosessuali di confronto, e ho visto che effettivamente aveva ragione. Cioè, in generale, statisticamente, le mamme, le zie materne, le nonne materne dei soggetti omosessuali hanno da un quinto a un terzo di figli in più, il che è una differenza molto considerevole data la numerosità del milione. E quindi abbiamo capito che c'era qualche cosa che veniva dalla linea materna. Quello che mi sta dicendo è un po' quello che si legge nei suoi lavori come la maternal line. Quindi abbiamo immediatamente ipotizzato che questo fattore genetico che influenzava l'omosessualità fosse anche lo stesso fattore genetico che influenzava la fecondità nelle femmine di linea materna. E che cos'è l'unica cosa che collega insieme le femmine di linea materna con i soggetti in questo caso? È un cromosoma che si chiama cromosoma X. E quindi abbiamo ipotizzato che nel cromosoma X ci fosse qualche cosa che faceva fare due cose diverse. Nei maschi li faceva più facilmente orientare verso l'omosessualità, ma nelle femmine le faceva, in qualche modo ancora poco chiaro, fare finire la vita con un numero di figli maggiore rispetto alle altre donne. Ora, professore, la interrompo un attimo, perché lei correttamente nel discorso che stava facendo ha sempre parlato del carattere gay e non del gene gay. Ora, noi siamo abituati ad aprire i giornali e a leggere il gene gay, il gene del capello biondo, il gene della maternità, ma non esiste un gene, esiste una serie di geni, quindi un carattere che influenza un tipo di comportamento, quindi più geni e un fenotipo. Dunque, sì, i geni influenzano il comportamento, ma in organismi complessi come noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo il risultato del nostro patrimonio genetico che si è interfacciato dal primo momento del concepimento in poi con un ambiente, quindi con esperienze, con educazione, con uno sviluppo, un ambiente chimico, fisico e di tutti i tipi. Quindi l'idea a pensare che ci sia un gene per un comportamento è sbagliato. Innanzitutto i geni agiscono su più comportamenti, i geni del comportamento, e agiscono anche su altri effetti, come in questo caso abbiamo proprio un classico esempio, un fattore genetico composto da uno o più geni, magari lo vedremo dopo, che in alcuni casi, per esempio nei maschi, ha un esito, produce un certo tipo di risultato, nelle femmine un altro, e questo è molto comune. Non era mai stato visto nell'uomo in questo caso, però è una questione molto comune, quindi è sempre essere molto attenti. Non c'è un gene per un comportamento, c'è un gene che può esprimere un allele che influenza un comportamento, se poi tutte le altre condizioni ci sono. Io mi trovo molto spesso, essendo un genetista del comportamento, a dover discutere questo aspetto, per esempio studiando l'infanticidio. L'infanticidio ha delle componenti genetiche, ma non c'è il gene dell'infanticidio. C'è un fattore genetico che in date condizioni favorisce l'infanticidio rispetto a chi non lo possiede, ma non c'è il gene che ti fa diventare infanticida. E la maggior parte della gente che ha il gene infanticidio non è infanticida per niente. La stessa cosa anche in questi fattori genetici, non è assolutamente detto che chi possiede questo fattore genetico che noi abbiamo identificato, che ho appena descritto, debba necessariamente diventare gay. Questo sarà l'esito di tutto il suo percorso di vita, delle sue esperienze, delle sue scelte, però una spinta diversa da altri individui c'è. Professore, a questo punto le faccio un'altra domanda che mi interessa particolarmente. Andando un po' a scartabellare fra i vari siti di informazione scientifica, ho notato che ci sono molti lavori sulla omosessualità maschile, quindi sulla possibile origine genetica dell'omosessualità maschile, ma veramente pochi sulla omosessualità femminile. La domanda è questa: c'è una qualche difficoltà dal punto di vista della ricerca, oppure qual è il problema? Allora, ci sono difficoltà di tantissimi livelli. Uno, la comunità gay maschile è generalmente molto aperta, quindi è facile lavorare con gli omosessuali maschi. È meno facile lavorare con le lesbiche, non perché sono più chiuse, ma sono più difficili da trovare, da vedere. È pieno di locali gay frequentati da maschi. Questo è un punto primo, ma che si può risolvere benissimo. Il secondo punto è che l'omosessualità maschile tende a essere abbastanza chiara, netta. La maggior parte dei soggetti che vengono valutati nei test con una scala che si chiama scala Kinsey si presentano o come preponderantemente omosessuali oppure come preponderantemente eterosessuali. In mezzo la bisessualità, l'intermedia bisessualità, la preponderante bisessualità non sono così frequenti. Quindi è facile studiare omosessuali verso eterosessuali. Nelle lesbiche questo è molto meno chiaro. Non è vero che sono così divise in due gruppi, ma c'è praticamente tutta una fascia intermedia. È molto difficile tagliare una linea di demarcazione per dire a una donna: tu sei lesbica, tu sei etero. È più difficile studiarlo da un punto di vista operativo, non di giudizi morali ovviamente, per classificare poi i campioni e fare gli studi, che noi facciamo degli studi di tipo statistico, matematico, di questo tipo. E quindi questo è un limite. Poi l'altro aspetto è che anche storicamente le donne lesbiche non hanno avuto così tanti limiti riproduttivi, perché purtroppo in quasi tutte le società le donne venivano obbligate a sposarsi, quindi se erano lesbiche o meno non cambiava niente, perché si dovevano sposare lo stesso e quindi facevano figli lo stesso. Sappiamo addirittura mogli di presidenti che notoriamente omosessuali, che però si sono sposate, hanno fatto la loro famiglia formalmente. Questo è stato meno comune negli omosessuali maschi. Quindi in effetti il dilemma darwiniano, ovvero essere omosessuale, non riprodursi, riprodursi molto meno, perché poi sappiamo che in effetti noi quando studiamo le differenze di successo riproduttivo fra il mondo omosessuale maschile e il mondo eterosessuale, è che il mondo omosessuale maschile si riproduce lo 0,7 rispetto all'1 del mondo eterosessuale, vuol dire che il 70% del successo riproduttivo c'è. Quindi molti omosessuali lasciano figli, fanno figli, alcuni fanno anche numerosi, ma statisticamente sono il 70% di quello che fanno gli eterosessuali. Nelle lesbiche questa differenza è molto più difficile da identificare. Il successo produttivo delle lesbiche è praticamente vicino, in alcuni casi uguale, al successo produttivo degli eterosessuali. Quindi è un, diciamo... in più io ho studiato le lesbiche, ho fatto un'analisi e tutto il modello che abbiamo identificato di selezione sessualmente antagonistica a due geni sul cromosoma X funziona perfettamente per i maschi, non funziona per niente per le femmine. C'è tutto un altro, altre cause, altre basi genetiche senz'altro, perché sappiamo che anche in questo caso le gemelle lesbiche sono molto spesso tutte e due le gemelle sono lesbiche. Le sorelle hanno un'alta probabilità di essere lesbiche, quindi c'è una componente genetica, ma non è quella che abbiamo studiato noi. È un campo ancora da esplorare ulteriormente, un pochino più difficile del campo degli omosessuali maschi. Professore, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e continuiamo con la nostra chiacchierata. Are spinning in the dark. A secret wish that none will know. She keeps it locked up in her pale heart. Wait for it. It's tired and it's true. All she ever knew. She dreams in blue. She dreams in blue. Wait for it. It's all she ever knew. Intertwine. A distant glow of beacon lights breaking through the cracks between the blinds. Wait for it, it's hiding out of view. Thank you. bentornati cari radioascoltatori a Caccia Fotone, in questa puntata in cui stiamo provando ad analizzare un po' le origini genetiche dell'omosessualità, e ne stiamo parlando col professor Andrea Camperio Ciani del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova. Professore, nei suoi lavori risulta molto presente la matematica, quindi la matematica statistica per fare dei calcoli sulla popolazione. E quindi la mia domanda è questa: siete partiti dalla matematica per poi arrivare alla genetica, o siete partiti dalla genetica per poi arrivare alla matematica? In parole povere, è nato prima l'uovo o la gallina? Ma per alcuni nasce prima l'uovo, per altri nasce prima la gallina. Secondo me dipende dagli strumenti, nel senso che io non c'ho un pollaio. Non ho un laboratorio di genetica molecolare in cui posso andare a guardare i geni, e francamente nemmeno mi diverte. Io studio la genetica di popolazione, questo è di fatto genetica di popolazione, genetica del comportamento, attraverso la logica. La logica con delle regole estremamente precise, che sono quelle della logica darwiniana, cioè dell'evoluzione per selezione naturale, e le regole che si chiamano della genetica di popolazione. Quindi io ho tutta una serie di modelli matematici e teorici che mi permettono di verificare come un gene, se esiste, dovrebbe funzionare. Poi ho anche tutta una serie di evidenze che io raccolgo dall'osservazione esterna. Per esempio, studiando i gay, so che i geni che influenzano l'omosessualità maschile devono fare sì che, uno, devono corrispondere a dei dati di tipo naturalistico che sappiamo esiste. Per esempio, gli omosessuali esistono in tutte le popolazioni del mondo. Tutte le popolazioni che dicono non avere omosessuali, quando vengono poi indagate, gli omosessuali ci sono, semplicemente o non li vogliono vedere, o li ignorano, o vorrebbero nasconderli. Secondo, gli omosessuali non sono mai la maggior parte della popolazione maschile, sono sempre una frequenza variabile fra il raro e l'abbastanza raro, diciamo fra lo 0,5 e il 5%, anche con punte del 10%, ma non tanto più alte. Ok, quindi i modelli matematici non dovrebbero far superare queste frequenze, se no non sono realistici. Altra cosa, abbiamo identificato che gli omosessuali hanno femmine che sono più feconde, quindi se aumentano tantissimo gli omosessuali, aumentano tanto anche le femmine che aumentano la loro fecondità, quindi i modelli matematici devono tenere conto di questo. Quindi questa serie di parametri che noi dovevamo verificare, quindi esistenza degli omosessuali ovunque, non spariscono mai, non diventano mai la totalità della popolazione, rimangono costantemente a frequenze abbastanza basse, hanno una simmetria da parte materna nella fecondità ma non da parte paterna, erano tutti dei dati che i nostri modelli dovevano rispettare. Se non li rispettavano, vuol dire che il modello non funzionava. E a questo punto abbiamo testato tutta una serie di modelli che sono, per esempio, il modello dell'overdominance, è quello classico, che qualcuno che si intende un pochino di genetica, era quello del vantaggio dell'eterozigote. Nel caso della malaria sappiamo che ci sono dei fattori protettivi che inducono in un soggetto che è omozigote il morbo di Cooley, lo fanno morire. Se il fattore non esiste, quindi è completamente assente, ti becchi la malaria. Se invece erediti il fattore dal papà o dalla mamma, da uno dei due, quindi sei eterozigote, non hai il morbo di Cooley, non muori a causa del morbo di Cooley, ma la malaria non riesce a attaccarti. Si chiama il vantaggio dell'eterozigote. Abbiamo testato anche questo, ovvero come poteva funzionare negli omosessuali. Se tu hai un fattore che lo erediti soltanto da parte materna o da parte paterna, diventi magari creativo o con delle caratteristiche vantaggiose che ti fanno fare tanti figli. Se invece il fattore lo erediti da entrambi i genitori, sei omozigote e diventi gay. Quindi il fattore che si dice di overdominance, di svantaggio da troppa dominanza. Stiamo sempre parlando di svantaggio in termini riproduttivi, non dal punto di vista morale, intendiamoci. Sì, certo, ha fatto bene a precisarlo, perché ovviamente il termine svantaggio è un termine utilizzato fondamentalmente per la genetica, quindi svantaggio riproduttivo. Appunto, no, ci tengo a specificarlo, perché quando uno dice il fattore di svantaggio o vantaggio, magari può intendere che uno lo intenda vantaggioso in senso morale, mentre si parla soltanto in termini darwiniani. E quindi abbiamo testato tutti questi modelli, di cui Uno, che non è mai stato testato prima, è quello della selezione sessualmente antagonistica, ovvero ipotizzare che un fattore genetico avesse un comportamento X in un sesso e Y nell'altro, e che quindi la diffusione di questo fattore si mantenga perché svantaggia un sesso ma avvantaggia ancora meglio l'altro, in termini proprio di conflitto sessuale. Cioè, sono fattori genetici che dicono: io me ne frego dei maschi, aiuto le femmine, ma le aiuto così bene a detrimento dei maschi che alla fine mi diffondo. Questo è proprio nella logica del famoso modello del gene egoista di Richard Dawkins, che in realtà l'unità di selezione non è l'individuo stesso, ma molto spesso sono i geni che fanno strategie per diffondersi e sostanzialmente si disinteressano a quello che fanno nell'individuo. E questa è una buona strategia, cioè questi fattori genetici che inducono l'aumento di fecondità nelle femmine si diffondono rapidamente, pagando un costo, in termini darwiniani, di indurre anche una certa omosessualità nei maschi. Quindi paradossalmente quello che abbiamo scoperto è che nelle popolazioni dove ci sono più omosessuali, che sono quelle popolazioni che fra l'altro sono la minaccia, no, della Chiesa, perché dice, vedi, tanti omosessuali vuol dire che la popolazione si estinguerà, in realtà sono le popolazioni composte dalle femmine più feconde e quindi le popolazioni più vitali dal punto di vista riproduttivo, esattamente in modo assolutamente controintuitivo. Questa è una delle conclusioni del nostro lavoro del 2008. La presenza degli omosessuali in una popolazione, secondo il modello della selezione sessualmente antagonistica che abbiamo comprovato, suggerisce che dove ci sono più omosessuali ci sono anche più femmine altamente feconde, e quindi la popolazione col più alto numero di omosessuali è una popolazione anche altamente feconda. Professore, con queste sue parole io la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Calciofotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti.